Čez, daješ me, Tila. Pitaj su mi činja, na juke. Kamada. Čez, suonala così. Non te ramenare, non mi nominare, non farti pregare, no, non pensare male, non gesticolare, non mi puoi frammiare, non sono normale, no, non pensare male. Basso, ma che cazzo vuoi ballare con me? Che se puzzo di marcio io Riccardo. Un MC come un altro, mica come questi G's travestiti da Nando. Oh, lo conosci, la pregna carogna che dai debiti in Sardegna ne è fuggito a Bologna. Poi è tornato perché lì gli è andato l'agonia. Mo non esce perché in strada sicuro se ne vergogna. Hai fottuto con parole QG, ma io sto insane in the brain come sempre sì. Belli miei, voi galleggiate da stronzi, fossi su Happy Days, io tra voi sarei Fonzi. Homies, cos'è che fonti? Se vendi le camicie e le bandane a quattro cricche di jolly. Non parlo di porri, ma QG valeriana. Non parlare spagnolo come una troia messicana. Non te ramenare, non mi nominare, non farti pregare, no, non pensare male, non gesticolare, non mi puoi frammiare, non sono normale, no, non pensare come male. Corone è un click e fotto lo stato, penso che per molto meno a me mi hanno cuccato come comore un... E ho già guadagnato come Berlusca, invece sto bene perché sono ladro, senti ciò. Come quelli di Bryant, il mio piscio per te vale come acqua santa. Mi hanno detto che in piazza sei un tipo che canta con la giusta perché mamma ti spacca la faccia. Hai bisogno di una traccia che suona così per far capire alla massa che sei morto in funzione alla beat. Il tuo nome sui live suona quasi leggenda, ma la gente ormai lo sa che sei un uomo di merda. Grazie. Ricky Snow, so come Vodafone intorno a te. Cambio gli account e non pensare male. Tu devi farti male e non restarci male, ma puoi pure schiattare, l'importante è che non te lamentare, non mi nominare, non farti pregare, no, non pensare male, non gesticolare, non mi puoi frammiare, non sono normale, no, non pensare male, non te lamentare, non mi nominare, non farti pregare, no, non pensare male, non gesticolare, non mi puoi frammiare, non sono normale, no, non pensare male.